è stato veramente un lavoro di rete. Partirei da questa cosa qua, cioè la ripartenza attraverso una nuova normalità. La nuova normalità è riprendere in mano la cultura e riguardare le facce, i visi, sentire i respiri, no? Che negli eventi vanno tutti all'unisono a un certo punto, seguono chi conduce, che può essere l'attore, l'artista, il performer, il circense, il cantante, il film. E soprattutto il concetto di famiglia, no? Il concetto di famiglia etimologicamente, l'etimologia osca proprio del concetto di famiglia, che è vivere sotto lo stesso tetto e quindi condividere un intento comune. Quindi tutti quanti si sono sforzati moltissimo di mettere insieme questo programma, uscendo dai loro spazi, invadendo gli spazi degli altri, e degli altri nel senso degli altri che, tra virgolette, e facendo diventare questo A Mente Fresca un unico grande cartellone in cui tutti i luoghi di Casalecchio sono coinvolti. Tutti vuol dire Casa Nena, Spazio Eco, il teatro, la Casa della Conoscenza, il Teatro Betti, la Casa delle Acque, i Percorsi di Pace, la Casa dell'Ambiente, la Limonaia, la Serra, che per me è uno dei posti fondamentali. Detto ciò, avremo 43 singole serate che si dipaneranno tra giugno, luglio, agosto, settembre. Cominciamo praticamente il 4 giugno, e questa prima data ve la devo dare perché è la data più vicina, al Teatro Comunale Laura Betti alle 17:30 c'è Flow is Bigger Than Hip Hop, che è stato un progetto, questa è la fase conclusiva di un magnifico progetto organizzato da Aterformazione, dal Teatro Laura Betti, coordinato da Cira Santoro, sull'approccio alle musiche contemporanee. E questo, fra l'altro, trova anche la collaborazione del Locomotive Club e il sostegno della Fondazione del Monte nell'ambito di un bellissimo progetto che si chiama Generazione a Teatro, che già viene fatto da tanto tempo da Ater e dal Teatro Betti. Quindi altre collaborazioni nelle collaborazioni. Venerdì 4 parte anche Equilibri, contemporaneamente, più tardi alle 21:15 alla Casa delle Acque. Nel programma trovate anche, fra l'altro, tutti i siti dove andare a vedere, e ovviamente sul sito del Comune di Casalecchio c'è il quadro di unione di questa programmazione. La parola relazione per il 2021-22 è la parola centrale, per me è la parola centrale intorno a quale far ruotare tutto, tutta la programmazione del circuito. E beh, quello che mi ha colpito è soprattutto che il teatro sta tornando in questa seconda fase, in questa secondo post pandemia, a riscoprire molto fortemente il rapporto tra l'attore e lo spettatore. Per Jerzy Grotowski, che è stato uno dei maestri che io ho avuto la fortuna di incontrare, il teatro è ciò che avviene tra lo spettatore e l'attore. Tutto il resto è supplementare. Non servono le scenografie, non servono le luci, non serve nulla. Serve il rapporto tra l'attore e lo spettatore. E noi, attraverso anche il lavoro che in particolare il Teatro Laura Betti sta portando avanti in questi anni a Casalecchio, stiamo rimettendo al centro questa relazione, che era un po' svanita, si era un po' appannata. Abbiamo un po' perso la necessità di questa forza di incontro. Adesso lo stiamo riscoprendo, e credo che questo è alla base di tutte le azioni che ci accompagnano, non solo il momento dello spettacolo, ma il momento dell'incontro fuori dello spettacolo, prima e dopo con gli attori, i laboratori, gli aspetti educativi, gli incontri, tutto ciò che fanno del teatro un agorà, un luogo di incontro della comunità, un luogo in cui la comunità si riconosce per affinare il pensiero critico, perché quello che ci preoccupa di più è la scomparsa del pensiero critico. Il recupero del pensiero critico può avvenire solo attraverso un recupero della relazione, e quindi noi dobbiamo tornare a far parlare le persone fra loro, a farle incontrare. Credo che il programma che è stato messo insieme a Casalecchio è proprio emblematico di riuscire a ricongiungere la comunità, a farla rincontrare. È l'obiettivo principale, credo, di questa grande estate casalecchiese, ed è l'obiettivo principale che abbiamo noi nel realizzare i programmi.